Neri. Chi è, chi è? Chi boia? Oi, uscia poco. E allora? Eh beh, tutto a posto. Tutto a posto, tutto a posto. E me adesso mi devo preparare per andare là. Andare in chiesa. Devi andare in chiesa, devi andare. Già va bene, almeno preghi. Accompagnare la vecchia, e se no, cosa fa? E cosa fai? Sì, non lo so. Se mi pensi tu mi vai, ti diavolo quello che ci pensi. Vabbè, è un lavoro. Io, purtroppo, devo accompagnarla. Purtroppo la cosa è così. Io ero giù qui da poco fa, sono appena salito, non avevo voglia di fare giù. Lui aveva mandato già un piede, quindi. Ah, addormentato era? Dormito era, ero lasciato addormentato. Davanti a fatti i peli, almeno sono a posto. Domani a te, appena mezz'ora mi faccio la barba. E anch'io. Anch'io mi faccio la barba, mi faccio tutto bello. Bisogna farsi la barba, se no ci passa molto picco. A molto sega ci passiamo. Scusa lì, dai. O ci passiamo quello che taglia l'erba, come cavolo si chiama? Non ho capito, taglia l'erba? Ci passiamo quello che taglia l'erba, in faccia, che taglia l'erba, hai capito? Allora, se no ci facciamo degli spugliatori. Quello. Certo, mi sembra c'era qualcuno dove non c'era chi avanti, non c'è nessuno, tutti fuggiti sono. Il buio, Chi è là? Chi mi dicevo chi è? Chi pare tu? Vuol dire che non vuole rispondere. Vuol dire che non ne ha voglia. Ci avrà qualcosa, hai capito, indigetto. Scesa di traverso la canna. Andate a lavorare, andate, Millibay. Sono me, entra due, lo chef d'Italia, buonasera, lo chef d'Italia. Buonasera, buonasera, neanche il giorno di festa. Mi lasciate in pace. Allora, oggi è il 1° maggio, la festa di Bucarelli, della CGL. Già lo so, già, oggi sì, per carità. Invece in Francia si stanno scannando, l'hai visto in TV? L'ho visto, fanno bene in Francia a scannarsi, capito? Guarda, qualche giorno tirano fuoco al liceo, non ci vorrà molto, capito? Anche un morto c'è stato, hai visto? E non so quanti viriti. Meglio a loro che a noi, grazie. Noi già diventiamo musulmani, fregatene, grazie. La possibilità dei cristiani diventiamo musulmani, andiamo a vedere il museo, preghiamo, i falsi, colpi se lo fuori. Eia. Meglio a loro che a noi. E oggi a nessun posto sei andato, Antoni? No, non sono andato a nessun posto, sono sceso qui da mio fratello e basta, non sono neanche uscito, domani esco. Vabbè dai che io mi devo preparare, dai, ci sentiamo più dopo, dai, me lo porta presso Antonello. E va bene Giuseppe, già siamo qua. Ok, buona passeggiarci. Sanno che ci siano Gio Maria, Coso, Bacchisio, evidentemente sono in campagna tutti a mangiare. Bacchisio in campagna, una zappetta dava, una zappetta dalla burra, e si basterà di gusci. Gio Maria sarà invitato. Ah, io adesso sono rimasto a casa oggi, non avevo voglia di uscire, domani e mi faccio qualche giro, capito? No, io stamattina sono andato al cimitero a fare visita ai pazienti, ho messo i fiori, poi sono andato all'erospitato che era aperto, poi da Marius e poi mi sono controllato a casa di là, mezz'ora e mezzo. Quindi ti sei fatto la spesa di là? Quello che mi mancava, dato che era aperto, l'ho preso. Fatto bene, fatto bene. Beh, è stato che era in giro, ha detto, oh, se sono a bestia, io ti devo pigliare i piatti di plastica, di bicchieri, quella roba lì, me. Ne avevo poche, me li ho comprati, scottese, quella roba lì, dell'altro già c'ho tutto. Vabbè, è stato bene, a prendere un po' di roba, però, e la riserva c'hai. Così mi dà già, chi no che per un negozio, un supermercato, chi no che ti grazia, una farmacia. Ah, qui già abbiamo, c'ho rosito un po', perché qui si può scegliere, capito? O uno o l'altro, quindi sono a posto, forse acqua, sapone, sapone, profumi, c'è tutto qui, a caponato, non manca nulla. E anche quello che il tabacchino che vende le sigarette. Mi dirà la manca nei buchi. Vabbè, quelli pochi che ci sono, basta gestirli bene e si tira avanti, cosa vuoi fare? E cosa si può fare? Niente. Vabbè, quello sì, è vero. Oggi ho visto una scatola, ho visto una scatola di TV, 75 pollici, adesso. Io la devo mandare, evidentemente qualcuno se l'ha comprato in offerta, io la devo mandare la scatola già, quello però. Ma è la viuta? E la viuta sì, non era mica piena, ma c'era solamente l'involucro e basta, le due staffe per appenderla al muro, perché hanno messo due staffe. Evidentemente qualcuno se l'ha comprato adesso che sono in offerta, ma oggi i televisori li ha dati burbarati. Io oramai i televisori non ne può più, ci sono quelli nuovi, quelli a toboccatori, manco a regalo ne vogliono, ne ho due io in garage buttati. Io adesso se trovo qualcuno ci ha fatto campagna, glieli do, è così. Si compra il genitore, si compra e se lo piazza. Ma manco se li aprono la villa, li portano via, vanno a picchiare la parola. Ma io ce li avevo due, quattro cervitori, li ho dati a Luca, tanto non me ne faceva nulla. E poi ne avevo altri, li ho dato e ce ne ho anche buttato, ma me ne ho tenuto due in campagna perché c'ho il televisore a tubo cattolico. Discorsa e buco e cosa me ne fa via? Ma solo perché mi sentirò che sono 14 pollici che c'ha le batterie, adesso devo fargli la modifica a un ricevitore per mettere la batteria dove ci vuole, così quando faccio qualche impianto antenna TV me lo metterò le due sopra e faccio poi la faccia. Anda bene, bene, anda bene, bene. Ehi, oggi non la giocava, mi dura un fianco, un rene. Mi ammazza e ne dà le mani. Anche col fiatone. Ehi, anche col fiatone, su. Va. Ehi, la potete stare fermo. Mi sta accorgendo che quando comincia a portare il peso viene un pochettino male, capito? Si mi era abituato a uscire tutti i giorni con le buste piene, adesso invece viene un po' in salita, viene. Se lo faccio la dieta, mi faccio tenere la pancia, sta presente. No, io l'ubiatore mi dà giù per via di Romarallo. Ah, mi viene anche così, mi fermo senza fare niente. Mi viene, la fanno così, boh. E stamani invece non me ne è venuto, anche se ho camminato lì al cimitero, boh. Non me ne è giunto. Però certe volte mi viene e mi devo fermare. No, vabbè, che deve salire, va bene, perché il problema è portare magari qualche peso per i capisci bene, perché ti non No, si piglia pure, per dire, un cartone di acqua, anche due bottiglie. L'altro giorno da garage ne sono salito, cosa c'avevo? Una busta che si pisava 3 kg da buru giù. Magari mi devo buttare la lingua pura, ma proprio la fanno forte. Io non le posso prendere i pesi, capito? Mi fate venire subito la fanno. Si fermo anche. Oramai, da un più vent'anni, no? Quando si uccidavano i salizi a tutti la 25 in Cercevento e si portavano a passeggio. A parte, vabbè, io vabbè che ho il malanno che ho, che l'ho cronico, dunque me l'ha detto lei, deve fare i movimenti piano, senza fare sforzi, non prendere pesi di qualsiasi maniera, non deve fare niente, ma si può andare a muovere. Che le tasse, quindi. Ya siamo a posto, siamo. Arrivati dopo 50 anni, si comincia a sentire i colpi. Avanti Giuseppe, scusa, marito. Mi dovete a Luca se accende il PMR, che mi ha mandato un messaggio. E chi? A Luca Manicomio. Ah, salutamelo. Magari già entra dopo. Aspetta che glielo chiedo, mi ha mandato un messaggio, riesci a vedere. Che ti fai chiedere, cioè? Accendi il PMR, Luca, che ci sono gli Antonello. Ah, non è a casa. Deve essere ancora in campagna. Chi nella bava ha fatto un video, capito? E la gente molla rosso che arriva in un padrone. Ah, le favole sta facendo. Tu, io proprio. Le favole fanno male a me. Sono di più dolore. E ancora in campagna mi ha scritto. Papà, lascia mangiare le favole fresche. E la gula fanno, vendini la bava. Cosa? Chi è? Chi è? Chi è Antone? Oh, ho capito cosa, però ho capito chi sia. Avanti, signor Cosa. Mi pare a Bombolo. Bombolo, tu sei se, o sei se due? Avanti, vuole entrare, me lo bei. Non ne ha voglia, evidentemente, Antone. Io ci sono capito. Vuol dire che non ha voglia di entrare. Ehi, oggi cos'hai pranzato? Roba buona. Io pennette a ragù e calamari fritti, salsiccia e cacio e insalata. Io sono spezzatino oggi e basta, ma già per le tre. No, l'ho fatto da poco lo spezzatino, un due settimane fa. Ui, no, oggi pennette e calamari fritti, là. C'è la rivoli, ma non la giugana, E alla fine è stanca, perché mangiare le differenze, se cosa l'altro giorno ho mangiato fettina di cavallo. Poi prima le bistecche normali. Io sono andato, ho preso lo spezzatino con le patate, non l'ho fatto perché era parecchio tempo che non le mangiavo. Che è buono, no, io l'ho fatto un due settimane fa, ho fatto un spezzatino di maiale, patate e poi quasi a cottura ci ho messo i fagioli borlotti in mezzo, l'ho lasciato altri 5 minuti quelli precotti ed è uscito un bel buono. Io ci metto i fagioli molte volte. A me faccio di proprio, non mi piace. Beh, ci sono buoni, tipo Bud Dispenser, da me ti fanno i drudi. Quello già è vero, una volta che fanno appoggiare, poi capito, in casa, soprattutto l'appartamento in casa. Ehi, no, ti appoggi fuori al terrazzo, sei inquinaggi l'ambiente. E allora, così bisogna fare ogni tanto. Quello è per spurgare la canna fumaria. Allora, la spurgare la canna fumaria, perché non la canna, la cambiamo. E allora, va, ma con odore gentizio, quello è sempre in giro, col cane, a passeggio. Va bene. Cavalla, l'ho capusato, mi sono capizzato che la tomba di Rovabbo è vicino che c'è in mezzuzzala. Si chiudevo lì. Non me l'ero mai accorto. Stamattina me ne sono accorto. Sì, figurati. Andavi lì e non ti eri mai accorto di una cosa del genere. No, perché era da di fronte, però verso uscendo... Dove ci sono quei punti, c'è mia suocera, lì è mia cognata. E lui è di fronte però quasi all'uscita del portico, verso la fontanella. Stamani la Baidelli, lì Jenny, lì nome, e ha visto chi era lì. Comunque ce n'era gente stamattina, al cimitero, e vero un bel niente. E beh, se non so dove andare, almeno a trovare i parenti, nel cimitero lavano la tomba, poi prendono e se ne vanno. Hanno fatto loro dovere. E la Baidelli si vedono i clienti nuovi, che a venire alle mani, non li conosciamo, sì. Clienti nuovi. Roba fresca, mi. Allora, bisogna riportare la fila, facciamo da fretta che arriva. C'era anche un funerale, lo sai, nella chiesa, all'entrata lì, dove c'è la chiesa, via del portotto del cimitero. C'era la messa di un funerale, c'era un baule. 50 anni va via, chi ci vede il muso. La sera malato. Pensato magari era malato, ha 50 anni. Sicuramente avrà avuto qualche malanno. Così è. Hai visto che siamo conosci, che hanno i curiani che sono invalido, anzianotto, o che è morto, in ospedale è morto. Là arrestati e venissero altri implicati. Allora hai visto la TV, al telegiornale? Sì, già l'ho visto, già. Mi pare che erano in 12, che andavano già di Rebello. A già di Pietro e a portare in casa, a picchiarlo, capito? E che erano gli altri, capito? La gente sta diventando scema. E a chi lo sappiamo cosa va, un di luce si saccava, hanno capito a me, però bel vicinato, in casa non uccide un cane, hai faccia le rugura, per carità, che... Beh, dai enti, beh, durugu, io vedo una cosa del genere, chi è lo stronzo che non si avvicina e ridisigosa? Devono essere proprio cani morti in chi su rugu. Deve essere che dicevano che parli, ho capito. Non vogliono sapere niente. E quindi, finché non è morto, capito. Tutto andava bene. Una volta che è morto, boh. Adesso si scopre che lo sapevano tutti. Sì, ma capitando una cosa del genere a te, cosa ti sai con le mani in mano, vedendo una cosa del genere? Non ti buono in mezzo e faccia le rughe. Io per il carattere che ho, sì. Ah, se la via cuttare un muro. Sì, tanto deve essere tutta la volta in fondo. Qual è la cosa che stai? Una settimana o due e poi vado via. Ehi, chi non è così? Vabbè, chi ti sono minorenni e si danno in buccia, rugosi. Però come fanno la maggiore età, 18 anni, già nel prelevo e già nel circolino in galera. Ah, io, ma stiamo scherzando, che poi aggredisci la gente così, pure tra tu casa entravano, non hai inteso. E li curiano, li hanno liato, li hanno burato di là, li hanno distrutto la casa, ma stai scherzando, sta. Boh. E te l'ho visto, sta. Per carità, che se non la... Ma io già qualche tipo che la pigliavamo in carcere adesso, che potete fare. Vuoi che qualcuno non si vendichi? Ma io vedendo una cosa del genere sono il primo che cazzo intervengo. Oh, ma stiamo scherzando, stia. Boh, roba a manicomio, a chi non sappia di cosa va. Mi la via da Dio lui che fa. L'abbia fatto, io vai, l'abbia fatto, avessi di mia zia, una cosa del genere. Hai passato all'irugurum e ti fa zia niente. Avevi cosa di zia, lì. Ehi, al minimo saranno 12 persone che vai. Quanto mi hanno fatto il figlio, non mi fanno. Capito, adesso ci passano tutti gli altri, ci passano. Un bel di gente, era, un bel di gente che andava a rompergli le balle. E più hanno indagato anche il vicinato di Ulisse Diaghiccio. A chi la niente non sappia e nessuno ha mai fatto nulla. Ma stiamo scherzando, ossia. Boh, roba a macchina. Qua, era capitato in mano a me, chi se l'avevi visto cosa l'avevi fatto. Nove l'avevi fatti, altro che carina l'aveva dato. Adesso già stanno bene in galera, non ti preoccupare, già li picchiano dentro. Capito? A un lavoro ti fanno passare la voglia per me. Soprattutto il magro, per me, che si sperano in isolamento a meno mente. Quindi, non possono vedere nessuno anche l'avvocato. Roba la macchina. E a quanto ho sentito, mi sembra che c'è un altro caso simile a quello. Non l'ho sentito bene, in un altro paese o nello stesso paese mi sembra. Beh. Sì, la gente, la sera i ragazzi non sanno cosa fare e quando si mettono così adesso. Finché la possono fare. Se quello che trovano vedrai che fa passare la voglia. Hai capito? In un periodo vera una greffetta dei vicini di Ribaisi, di Basiani, veglia dalla cura e si punivano i dottori Borti con giugni a casino, barolacci, un casino faceva. Una di mi sono cacciarato e la giù vicino, la giù con un polpa, una la giù pizzicata a capo, a sta druga, guarda che ci sono io, proprio perché ci sei tu, te l'ho fatta apposta, anzi adesso scendo io, vi prendo a calcio in culo tutti quanti. Ha fatto una vita di barato, rabbata dalla vacca con il bianco rotto, tutti fuggiti su. Sì, che lo credo. ormai le rotte, capito, fanno casino, ma perché la vita fa un po' così, si abbotto. Di notte si mettono a spaccare bottiglie di birra in terra, capito? Ehi, basta a far come te la giuva tu e la giocuto un po' fa di male il tampo lo gambo. Passate lo gambo, mica ci sono io, ma che cazzo me ne frega, perché sei lì? Sai che l'avviati tu e l'altro, chi so che io fare a pigliare da calcio in culo. Ha trovato la vinta di entrambi che i parenti, no? Ho guardato dalla finestra al piano rotto. Fuggendo si toccavano i beni in capo. Che è disotto. Per quello, eh. E a chi la gita adesso scendo giù vi prendo a calcio in culo tutti quanti. Vi posso venire ai nocchi sotto a fare casino, tutto il casino che state facendo ogni giorno, a che fine ne unia dimmi, a bella se vi sono più giunti, forse è la bruva, chi fa se sei lì nuda, ne vedi scappiotta a destra e a sinistra, le posso curare. trattare, infatti. Uno per uno. È troppo malo, sì, se è troppo malo, io viviamo più basso, ma non sicuro. Caccia, tutti si dimmi, caccia, io pure si dimmo. Tu dormi, è zitto. Dopo che è passato un marocchino, no, due marocchini, una vicina marocchina, li fai macchino, di rubatele, ma se poi cosa ci fate qua? Siamo passeggiati, ricordo ogni cappalata l'ha fatto una, l'ha data giù a tre di buca. A me si mi sono più giunti. Ti pito, Daniel, ti pito. Beh, Antonello, che basta sotto a Graziano, pericoloso, me. Ma tu non hai compreso a chi va via a Ghisa? A chi a Ghisa la va via di qua? No, di incassavali, un quintilani. Chi no che va via nella matta e si goza, non hai compreso? Poi poi ci ha zizzirato, da un'inizio. Infatti si passi sopra e la vicina, la luce, la vedi chi? Mi sei innescando, sai, Stai innescando, cosa c'hai vicino acceso? Niente, e adesso? Fa un passaggio lungo? 1, 2, 3, 4, 5. Adesso va bene. Cavallo con parata non capo usato, non mi ero mai avvisato che vela, rubavo di dore, unia e mezzosa, la parola è a oggi, i rilucoli. Me ne sono accorto stamattina. Ah, il campusaggio si è parato. Adesso vedo la carri fresca. Ma devi cercare il luogo, tu. Oh, l'uroco, villaggio, io. Capita. Va giù, sottoterra, primo piano, secondo piano, è mansarda, è attico. Inteso, vai, Antone. All'attico si rubano in aereo. Allora si porta la testa. Parlo militare, mi voglio dire, sono Brasile, non ho compreso, so che vuoi un militare. Vero, Antone? So che c'è un militare, c'ha ragione, perché all'ultimo piano sta bene, sarà tranquillamente le finestre, ma non vuole. Questo poi va a casa di parenti, va a una e le sue esperte. E allora? E poi da lì vedi tutta la veduta, vedi, che non vedi. In basso non quasi, no. Maranucci, canto di fare, se ti muori la cara, con la lampadina, no, nel gaggio dalla cara, No, ve l'ascensore, veda a me, ve tutto, vado di bomba di calore, tutto, ve, è ben arredato. Allora, ti ricaggio il tribunale, ya. Già lo credo, a basso, capite di si pulire l'impianto, ma parla su fa pellete, con i termosifoni, e così tocco ancora più bene, e così, Antone. Ma devi fare adesso, perché la notte dice cazzo, che lo sai, perché non ha più la letta, non lo può. No, è così, già faccio l'antincendio puro, ma non c'è problema. Poi c'ho quei pannelli solari anche, Antone, per consumo energetico, non consumo corrente, tutto gratis. Quando ci lavorava Antonio lì al Ministero, dice che faceva la giornata di notte, vedeva le piambelle uscire. E me la male se non mi sono accesso la figale per trovare il piede con lui. Gli dai le sciare le fiammelle, ma quello le vedeva lui le fiammelle. Sì, è quello che si fa le cose, bene, poi l'ultima data, le fiammelle verdi di notte, uscire dalla terra. Vabbè, ma, Giulia. Te l'ho sentito qualche volta, scopi però, non si finisce uno in un campo santo. E anche di boom! E chi c'è che ha di scoppieggia lì? Qualche cazza sicuramente, ma forte mi il botto. Da vedere. Ma lo fa qualcuno, lo fa per svegliare quelli che ci sono vicino, capito? Evidentemente chi si abbia mangiato fagiolo prima di sutarrarlo, o no Antoni? Senz'altro, non è mai che una volta che lo mettono dentro, tocco la valvola di schiatto, se no mi ha visto fatto in aria, è una mavuccia che si apre. Che lo so già, a chi che ha fatto esumare la borelma di mio suocero? La casa legna era tutta crepata, va bene, a mezzumarcia. Invece quella di Lamiera, lì vedi, era scoppiata, era bombina. E beh, la pressione, già lo credo, una volta che... capito, si forma il coso, lo sa che finiamo a mangiare dei verdi, forse tutto. Balla, a me non mi mangiano, a chi mi posso fare al russo, allo spiedo, anche Gian Maria, vero Gian Maria? Ma che si arruia vero la graviglia, eh? Già mi posso arrusci bene, lo posso pulire a 3.000 calorie, a voglia, manco cucina per le mani. Già, da bene. Da bene, dico, a così mi sa balai. Hai visto a Santo Lorenzo? Cazzo, mi sei girato dall'altra parte, a chi era una parte, era troppo gotta, allora sei girato dall'altra parte, ma così calo di più. E allora, infatti io gli dico, pulimi lo spiedo, così fai una gocciola unica, vera Antonè? Lenta ma buona, E allora, ancora su internet, adesso non lo so dov'era, venani 4 o 5 agnoni a cabingiossi lo spiedo e 96 porcini, però non so in che paese era. Perché c'è andata una che conosco io. E infatti mi ha detto oggi si mangia carne, agnone pochito, chissà che paese era. Sarà il Nuorese. Sì, sicuramente era nel Nuorese, che vira nelle Bassorazze, si vedia a 30 km di distanza, la vira in Sicilia, in Gambari, e in Pantarone di Bruzzagno. Infatti io già usavo quel vestito, capito? Fresco, d'estate e caldo d'inverno. E allora, aspetta che do una busta alla mia 50, che sta pulendo le orate. Pulisci. E beh, Gio Mari. E ripenso di callare, non ha giovenna. Tutti spazzuti, a me non mi è toccato niente. Tutto Antonello si è appigliato, Antonello! E tenta, buffetta! A te già ti fai di nuovo, cura doppietta e ricascucci all'ardo, rubando le fave, me lo te ne fai la vergogna a quell'età! Me la fai! Ti arrivo subito io un attimo. Campagna aereo, cosa rubando? Mi chiamo Graziano, non sono ladro io. Ma si è giubilato un pastore in cura doppietta, currenni a tutto curri, eri Doberma e tu eri currenni in un viottolo. È vero. Ciao Mari, non abbia tanto di un favano. E chi è? Luca. Te lo dovevi vedere piegando il saccone di fave. Oh, ma è Fabi, coetto, non ne mangio fave, vero lui? Buonasera. Già le mangio, ciao Gio Mari, buonasera. Già le mangio, io a voglia, vieni fussia. Grazie a lui, grazie. Grazie a noi, sabudito. Noi gli ha detto, se ne basso da Graziano e ne gli dà un sacco. Davvero? Comunque già ne ha messo a fave quest'anno, ne ha messo un bel, ce n'è ancora, che a me ne abbiamo cucinato, Già l'ho visto già, meglio così, non sei contento. Meglio che vieni buccia, vero Gio Mari? Ehi, a caso finì un bel, meglio ancora. Poi quando ne le fai tutte, mi ridagli con il decespugliatore e le passi la moto zappa e fai con cima la terra. Vedi come te li sai, Graziano, queste cose, tu non le sai, capito? Meno male c'è lui che ci informa bene. Allora, lui è chef. Quando lo fai, vengo io e ti dirigo io. Tu fai quello che dico io e vedrai, al prossimo anno lì ci metti le patate, non ogni patato che dici. È vero. E dopo hai messo le patate, quest'anno metti le fave lì, all'incontrario. E lo vedi, ci fa le patate a quintali. Già va bene allora, dai. Diglielo tu, Giommari, che non lo sa, Luca. Vabbè, io ho pensato che Luca l'abbiamo già a dinà l'abbiamo piantato. Ah, Marco, abbiamo avuto un po' di draghi in un periodo. No, a di là cresce l'albero, da voi viene troppa niente, chissà chi cresce nel di là. Luca, non te lo sconsiglio. Sì, ma la c'è Gio Maria, pianta di là. Ma pure, non so qui in cosa, pure un biglietto da zio, la Danivemmi, a voi, già non ti frutta. E il villaggio mio, un semine dell'albero da 100 euro, dammi 50.000 lire, 50 euro, e ti do il semine. Il semine ti dà lui, hai sentito? Il semine. Sì, la semenza ci dà. No, per 50 te ne do una, se ne vuoi di più devi aumentare. Per forza. Se recupera, la voglia che le recuperi, ma lo primo periodo devi innaffiare a 20 di una di sì e una di no, e lei vanno fredda, tiepida, e lui così ci rimetti lui, lucidi, lucidi, vero Giommari? Ehi, è tutto vero. Sta fregandomi, è troppo caldo, poi basta un attimo di ti prendo un po' di, come si dice, di aria, ti fulmineggia, come ha fatto a me. Eppure stamattina sono uscito, sono andato al cimitero, ho camminato, poi sono andato all'Eurospeaker aperto, poi da Marius. Insomma, tra una cosa e l'altra sono arrivato qui da mezz'ora e mezzo, una meno un quarto. E già ho camminato, e mi sono rimasto stesso. E che è Marius? Sto per vedere di essersi a prendere da di fronte all'Eurospin di Mura. Ho preso i detersivi lì, no, della lavatrice, dei piatti. Anzi, veramente prendo sempre la ricarica dei piatti, conviene di più. Anche Marina, noi siamo andati poco fa a fare la spesa, così domani siamo più liberi. Capito, sono giocato, ma tanto Marina, la mamma l'ha già accompagnata a fare la spesa, poi ce l'abbiamo più tempo. Ma io ci sono andato, stato a farmi un giro. Non è che dobbiamo assai figlia, ho preso quelle cose che stavo finendo, che so che adopero di più, capito? Cartagini, cascotte, dei piatti, già ce l'ho ancora, però dato che le chiedi, mi lascio pigliati e pigliati, capito? Meglio che vi lascio, a chi no che sul negozio di Cristian non vi puoi comprare nulla. Abbiamo preso anche le battate, la farì, ma dici 3 euro, ci vedo 4 battate, ma sono grato, e cosa mi ne ha puttana tu solo, Luchida? Tu guardate che hai incadrato, ho dato ancora la Nuova Sardegna. No, e allora, io uso cottonella, 3 strati, morbida e profumata pure, compro quella profumata. Quella color celestina. Hai capito Giovanni, pure profumata. Ma lui ce la può permettere. A lui piace i profumi strani però, Allora, poi mi ho preso quel deodorante per le mascelle. Poi mi ho preso il deodorante e quello che ci spruzzi così. E poi cosa mi ho preso? Ah, le lamette, già ne avevo, ma me le ho comprate lo stesso. Le spugnette, già me ne ho preso roba. Io l'altro mese sono di matrimonio, mi hanno invitato, il cugino di Marina si sposa e siamo lì a Castel Sardo il primo giugno. Ehi, già si mangiava a Castel Sardo a base di pesce. Ah, una cassettina piccola per i ferri mi ho preso, a metterci quei cacciabiti piccolini. Tanto costava una gazzata 3,50 euro, ce ne avevo dentro un contenitore di plastica. Ha detto, beh, va, bisogna usare i bonghigli, cacciabiti piccolini. Sì, a tanta prova già ne ho io. Se l'ho visto, l'ho messo su Facebook, ho visto le trappole, la mola, tutti puliti, smontati, puliti, ingrassati, anche l'avvitatore che è nuovo, sto pulito. Perché ho pensato, hanno bucato lo muro, mi hanno tutto imbruttato, sto pulito, ingrassato, è lucido, lucido. E l'ho pulito con il coso, con il, come si chiama, col CRC, e si, nuovo, nuovo, nuovo. E poi il trappolo nuovo, nuovo, ciò ancora non l'ho mai usato. E sono ferri che, cioè, avrete dei gontu, se devi a travagliare, sì, se li va a travagliare, però bisogna pulirli pure, se no si rovinano. No, non li ho visto su Facebook, ma ci compro e vendo gli emi. No, li ho messi perché li ho puliti, mica per compro e vendo. Ah, boh, no, non li ho visto, non l'ho guardato quasi per niente, io ci sarei. Io già ce li ho, ne ho anche nuovi nuovi di ferri senza adoperare, per dire, quella macchinetta che aveva accorciato la porta del bagno, me l'ho comprata e l'ho usata solo quella volta, e dentro la casa, la nuova nuova, cosa l'ho usata? 10 minuti, l'ho rimessa nella scatola e ce l'ho messa nel soppalso. E ha fatto male pure a comprare la guida, ma è una cosa meno giubilata, ma rimane lì. E è nuova roba. Ma non ne aveva al momento, c'avevo l'alternativa, ma mi veniva male con l'alternativa, fare il taglio giusto, dritto. Vai, Graziano. E già sono fuori che servono, dai. Avanti, Giomari. Tu fuori già ne hai, sì. Cos'è lui? Ho detto, ferri già ne hai, sì. Ehi, a voglia. Beh, Gio Maria, buonasera. Mi è sembrato di aver sentito la voce di Bacchisio. Bacchisio, tu sì. Graziano, mi senti? Sì, che ti sento, Leonci. Io sono qua a San Pietro. Ah, c'è il mese Mariano da oggi. Un po' di gente c'è. Il mondo. Ci voleva andare, però oggi sicuramente oggi ci sarà pieno. C'è il mondo, la chiesa è completamente piena, zeppa. Giuseppe, pregati, andate. Ciao Giomari, buonasera. Prega, chissà chi c'è la volta buona, Giuseppe. Non è a noi, no, Giomari. A noi le fortune ce l'hanno bestemmiate. Sei tratteggiato, ti sento, Giuseppe. Sei tratteggiato. Comunque, buonasera, ben sentito, vai lui. Attento, Giovanziano. Io lo sento a tratti. E anch'io lo sento a tratti. E poi stati Giuseppe. Guarda a vedere, 1, 2, 3, 4, 5. Ma di così, forse va bene, riprova. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso va più bene, dai. Bacchi, Gioemi, ma lo occupi. Ciao, Bacchi. Cosa Bacchisio? Giuseppe Leoncino. Così anche Campagnolo. C'è anche Bacchisio, è in campagna, nel Cutiaca Campagnolo. Lo senti, Luca? No, avanti, Bacchisio. No, io non lo sento. Bacchisio, vieni avanti, non ti sente Luca? Mi arriva Luca, che si è cancellato la casa carbone, c'è la casa carbone esaurita, Luca non mi copio per quello, casa carbone nuova. Ha di tu che ci vuole la carta carbone nuova, Luca, non l'hai copiato. Ma come tu lo senti, Gianmarco? No, oh, non lo sento, niente, nulla. E io sì, Leoncino, lo senti tu a Bacchisio? No, ma io lo sento a tratti, però piccolo. Perché in campagna, nel Cutiaca campagnolo, capito? Bacchisio, Gianmaria non ti sente, Luca non ti sente e Leoncino ti sente a tratti. Leoncino, buonasera. Leoncino. Grazie, ma Antonello è andato, ce n'è. Perché a San Pietro, Leoncino? Gian Maria e Luca non ti sentono. Gian Maria lo sento benissimo. Gian Maria lo sento bene. Ah, Gian Maria, a te lui ti sente bene. Benissimo, ha detto che ti sente. A Luca no. Gian Maria. Dimmi, grazie. Ha detto che lui ti sente benissimo, bene bene, a Luca no, ma a te già ti sente. Ma non sento io a lui, è quel fatto. E come fai a conversare quando non ci sentiamo uno o l'altro? Grazie. Vedo un po' come la questione, che c'ha frequenza, è una frequenza proprio disequettata mia. Se c'è un ostacolo non passa, assolutamente. Così è lui. Esatto, lo gusto qui. Mi ha sentito 2 minuti, riprendi tu. Eia, è così, c'è ragione Giovanni, non c'è gusto. Eia. Aspetta, vediamo un po'. Leoncì. Dimmi Giovanni. Ma torrone a vendegli mi salti un brito. Gli ha bisogno le bancarelle, gli ha bisogno. Piglia un chiletto e passa di fatti una passeggiata. Quello di là che non va giù, Giovanni. A fare un periodo proprio, Allora, magna torrone a salti un brito, va. È tutto un mese, così che già ti fermo di scappata a che fuccia, va. È tutto lo mese, Mariano. Se non viene oggi, vieni esattamente domani. Finne. Che ha tutto un mese, a fine tempo. Luca, riprendita. Io me la riprendo, mi assento, vado a farmi una doccia, dai. Grazie. Vabbè, dai, ci sentiamo dopo, dai, che io entro in chiesa, dai. Ma chiudendo, sai? No, non stanno chiudendo, sta arrivando la gente, ma è già piena, però... Aspetto dentro. Raccolgo Giuseppe. Ci sentiamo, ciao. Chiudendo sa Giuseppe. Chiudendo sa, ma abbiamo lasciato Antonello in parcheggio. Chi si sei stufato ma si mi ha dato a farsi una bionda. No, ha detto che entrava subito, si è assentato andare all'Eurospin mi sembra. Ah, perché aperti sono i negozi? Sì. L'Eurospi ha aperto fino alle 8:30. Ma l'Abricomen ha detto e ho pure usato il due. Non ci ho fatto caso all'Abricomen. Città Mercato è chiuso, però tutti gli altri erano aperti, anche Marius. Allora l'Abricomen è chiuso, Non lo so se era chiuso, ma... Vabbè, ci andiamo domani, ciao. Va bene, perché mi serve un attrezzo e devo andarci. Ci vado male, io ho tempo, va. Ha bisogno di una manzana. Tore Squalo, non si è sentito oggi, no? O è il Platamone in bicicletta, un ricano attaccato appresso. Non l'ho sentito per niente. Luca, e tu in tesura? Luca sta mangiando, merendando con la pasta al forno. Chi se ne mangiano le pavette, i sidennari, i curusari. Dai, mi assento 10 minuti, grazie, dai. Che va giù di giappi, dormiti, minnazzi un altro poco, dai. Vai, già acceso qua. Ciao, Mari. Che è? Tuffo, ma mi senti? Sentendomi sì. Eia, prova. Prova la menta in forro. Eia, già ti sento. zitto. È vero. Facendo sì. Ehi, amico, ho finito, ho collegato le lampadine, mi sono arrivate dell'impianto solare. HIHI stavo finendo adesso. Ehi, e funzionano, no? Io ce li ho al sole, sino che c'è il sole li lascio. Arrivani, l'hanno impigliato un bel di sole. A ogni luce che fate? Anche stamattina erano ancora furti. Sì, hanno una lunga durata. No, l'impianto di casa io sto dicendo, che mi sono arrivate le lampadine. Le stavo piazzando e finendo di collegare tutto quanto, perché ho dovuto staccare giustamente la 220 dalle scatole e collegare la 12, pannello solare. Beh, già funziona bene, hai provato. Certo che funziona bene. Alla grande. È meglio così. Oh, quello là gli ho detto a mangiarselo quel pannellino là. E stamani la Biden e Macritù, se sono ancora interessata, avassero molti. Apri la voce, quella cosa che dici che esce in automatico quella scritta, intanto mi ha sputtanato. O no, pure se ne l'ha bugato, che l'ha cancellato, manco perché l'ha leggito, ma l'ho compreso. Non ti pare. Ehi, spero un secondo che... Un attimo, grazie. Ehi, mi è entrato Luca, si è sentato un attimo. Flipper, chi d'altro deve esserci a buffetti con la fama? Ah, basta forno, sta merendando, gatto, c'è fava. Se l'ha mangiato a mezzanotte la fava. Ah, già è vero che oggi va via la pasta al forno. Ehi, capita, gli animali a bocco già. Ad una cosa piace, chi dà ragione? Come te la bassa asciutta io? Dabbè, bassa asciutta era magnolugnati. A te un attimo. Questa è la camera da... Beh, Giammari. Eccomi qua. No, stavo guardando un video che mi aveva mandato Luca, che gli sono arrivate quelle lampadine che aveva ordinato. Caspita, un bel luce base, che quell'impianto che si è fatto. Ebbene, fanno sì. Poi sono a LED, sono quelle lampadine, capito? Luce bianca, adesso è la luce bianca a fare molta luce, capito? Me ne ha mandato un altro, riesci a vederlo. Ciao Mari! Ehi, mi ha fatto bene tutte le lampadine, un bel di luce base. Belle, mi. Già le sto guardando anch'io, là. Fanno sì luce. Caspita, 12 volts. Ma la TV a 220, a meno che non si compra quell'altro coso che la fa a 12 volts la TV. Le lampadine sono a 12 volte, no? Ci sono le batterie, capito? Ci sono le batterie che va collegato col pannello solare. Già lo so, già me l'aveva fatto vedere l'altra volta. Ma dico, per la televisione a farla andare a 12 volte deve comprare un trasformatore. Ma da cui vede la televisione, no? Attenzione, non è che lo si ammazzai, no? Lo scaldo bagno che si ammazzai, è ferro da siro, però la televisione consuma poco, capito? Ma per la luce va bene questi qua, capito? Anche per le lampadine già va bene lo stesso. Infatti in cucina più in inverno rimani sempre con la luce accesa. Allora conviene questa qua, questi qua, infatti, perché sono autonomo, capito? E per cui, cazzo, tu ce l'hai il posto, io questi tempi l'avevo rifatto con l'impianto, non è che spendi tanto, no? Già lo so, mi sono convincente. E adesso c'ho quei pannellini piccoli, non sai gli rutti che fate nella rutti, quando vuoi buccio. E infatti non accendo luce di corrente, metto uno di quelli, quando passa si accende, oppure se rimane sul posto rimane sempre acceso. Se ti sposti rimane un po' acceso e poi si spegne da solo. Torno a passare si accende all'azzurro e poi si mette luce bianca bianca. C'è la mia figlia, quella lì, fuori. Sì, ce l'ha nella veranda, nella tettoia dove mettono le macchine, giù su strada. Poi ce l'ha anche sulla finestra, ce l'ha anche sulla porta, ce l'ha anche sull'altra, quell'altra nel magazzino, fuori, capito? Gli apparecchi, quelli dici così, che si accendono quando passi davanti, capito? E anche quelli sono belli, capito? Per cui, ma dentro casa no, dentro casa io preferisco la luce normale, capito? Poi, se c'è l'impianto, è chiaro, elimini da 220 e fai funzionare 12 volte. No, ma io quei pannellini che ho ne metto uno in bagno, due nell'ingresso, uno in cameretta e uno in camera da letto. Quando entro luce non è accendo, manca va giù, perché allungo la mano, passo la mano in aria, no? Verso dove c'è quello si accende da solo. Vabbè, ma con l'altro impianto che ho fatto Luca è tutta un'altra cosa, capito? Oh, grazie. È tutta un'altra cosa quell'impianto che ha fatto Luca, a quello che stai dicendo tu. Quello che ci ha fatto lui praticamente c'ha il pannello solare grande e logicamente fa funzionare tutti i lampadini con due batterie grandi, è logico, ho fatto così. Però questi piccoli che ho preso io per provare e fanno bene luce, e luce in bagno quando entro non è accendo perché quello illumina tutto, più di la lampadina che vè in camera da letto, lo stesso illumina più del lampadario perché la luce è bianca, capito? E c'ha 48 letti, ogni cosa c'ha 48 letti. È una base potentissima la luce, infatti si la baiti, si piglia oggi. Ma quanto ne hai piazzato tu in casa tua? Sì, ne ho, non li ho piazzati, li appoggio uno sul comodino, verso lo che prende tutta la camera da letto quando si illumina. Uno l'ho messo nell'ingresso, uno in cameretta, uno in salone e uno in bagno e uno molte volte lo lascio qua in cucina invece di dirmi la luce accesa. C'ho quello, se voglio la luce allungo la mano e si accendi senza toccare, gli passi la mano lontano, anche se sei lontano si accende. Ma sai così, già conosco quello lì, aspetta, c'è la mia figlia. E poi c'era anche in campagna l'altra mia figlia pure. E quando passi avanti si accendono e lui ce ne fanno. E poi ce ne sono di tutte le misure. Ce ne sono fari grandi pure, e quelli fanno un bel di luce pure, capito? E per cui, secondo me dove li metti che fanno comodo non conviene, ma dentro casa, dentro casa io non ne metto di quella roba dentro casa, capito? Magari un piatto come sta facendo Luca va bene, perché i fili li fai passare su dove ci sono quelle della 220, cambi le prese, tutto, e ci fa l'impianto bene, allora va bene. E c'hai la 220 e poi la 12 volte, capito? No, le prese le devi solo aggiungere l'interruttore alla placca. Devi comprarti al limite un interruttore, ci bisogna due interruttori, una presa un interruttore, devi pigliare la placchetta nuova a 3, perché aggiungi un interruttore, capito? È normale, no? È così, infatti, allora. Mette la presa a due, la territorio a due, così che sia la 220 oppure la 12 volt. Sarebbe bello fare un piatto del genere, ma boh, i figli passano o non passano, capito? Perché qua hanno messo quelle guaine, ma forse li hanno anche aggiunti in certi posti e non passa, come hanno fatto alla guaina della televisione, no? Cazza, l'ho cambiato, lo dovevo cambiare il filo della televisione, ma che non sono riuscito a toglierlo per nessuna ragione, così che ho fatto altro impianto diverso, per dire, no, anche dove passano i fili, sono fili diversi, la guaina è stretta e non si sa se passa, l'ho capito, perché mi sono accorto da mio figlio di fronte a me che lui voleva cambiare tutto l'impianto, no? In certi posti l'ha cambiato, in certi posti non passavano e non riuscivano e allora ha lasciato tutto così. Adesso può darsi che in casa tu magari i corrugati siano più larghi e i fili sono più grossi e va più bene. Ma cosa che non impasticcio pure in occhio l'impianto che hanno fatto? E l'ingresso che devi abbassare l'ufficio di l'antenna, viso 4 o 5 buchi di corrugato, sta entrando la lenza, li sbuccavano. Uno solo sbucca 30 rumori alla base dello salone, infatti ho fatto muovere la lenza e ho fatto un buco lì per passare il capo dell'antenna quando me lo voleva punire il salone. Ha detto, e là ci sono tutti i tubi mossi, camminano un po' che da poi si bloccano. Per carità, fanno schifo a razza di impianti. Ah, non sei qua come l'hanno fatto? Ciao Gio Mari, buonasera. Allora, tu immaginati che qua, siccome poi hanno trovato le pignate al contrario, no? Dalle scatole al lampadario, come sono andati? Hanno fatto la traccia prima di mettere l'intonaco, no? Hanno messo, ha passato il filo e murato il filo così, sicché dal lampadario alla scatola di derivazione ho dovuto tenere l'impianto vecchio, i fili vecchi perché i fili li hanno murati, perché le pignate se le sono trovate al contrario delle scatole, così che per non mettere il corrugato cosa hanno fatto? Hanno murato il filo che porta dalla scatola al lampadario, l'hanno murato nell'intonaco, cioè dimmi tu. Sicuramente anche qua mi qualche uno è fatto così. A chi ha le tracce di fili ma fa funzionare la ventola che va in cucina, mi ha fatto i cillocci, da poi a un certo punto non vi entrava, ha giudicato i fili e me ne è rimasto tutto l'intonaco in mano con i fili, e un corrugato era tutto a pezzi, tutto pratico, ma forza non entrava lì. Allora gli ho cambiato quel pezzo di corrugato, ce l'ho infilato a mano e voi agitavate la biglia in luce, infatti non ha manco piazzato l'interruttore, che mi ha fatto venire un nervoso. Ho risappato la traccia che c'era e la giù la cazzo così. E quando la voglio accendere mi pongo la scalettina e tiro, o se no gli metto la corda più lunga, tiro e accende così. Però io volevo mettere un interruttore, capito? Nella placca. E beh certo, un filo collega l'interruttore o io non lo mandi alla ventola. Appa, vado provando, no, con i fili che ho messo. Ho preso un altro interruttore, è un impasticcio questi impianti che mi hanno fatto in occhi. Fanno schifo. E se te lo sto dicendo cosa hanno combinato qua? Adesso qua, siccome io voglio fare l'impianto nuovo di tutte le prese e toglierne quei cavi rigidi che ci sono, ne tolgo tutta quella roba lì e lo faccio con fili nuovi, il resto funziona da solare, tutte le luci, però le prese faccio l'impianto nuovo con i fili come si deve. Allora, l'ha rifatto l'impianto a ragazzo dei cani, proprio fatto ma modo di dire anche in certe prese c'è corrugato, io ci ho provato a infilarci la lenta, la vedo per tutta in secchi ne tra mezzo metro, in secchi ne tra 20 centimetri, in cesi ne entra 3 metri da mezzo in ciola. Andiamo così dove arriva la lenta ed è bloccata in mezzo al muro. Hanno fatto un casino. E lì hanno murato. Magari la guaina non passava. Erano bloccata lì e il capo cosa ha passato in quel un altro pezzo l'hanno murato, capito? Fanno così. E quel magazzino hanno fatto così da me. È tutto murato quel capo, fanno piattare, adesso per poter, se dovessi esserci un'interruzione, cazzo, devi fare il pianto esternamente, perché i fili sono stati murati direttamente. Cazzo, cosa li costava a mettere la guaina lunga, cazzo, boh, facciamo. Cazzo, hanno murato i fili, magari in qualche posto anche qua sarà così, perché è dappertutto qua la teoce, che l'impianto ho fatto male, ma male veramente, no? Se ne esce un pezzo, l'altro pezzo non esce, si rompe perché è bloccato. Fanno schifo, tutti i travagli fatti in economia. All'imbigliato travaglio, ma due cinti, e arrivato travaglio alla buccicata, bru. Quasi ne bidà, quasi. Oh, i noghi, sicuramente un bel di noghi, se mi pongo, devi aprirti i tracci, zorra, noghi, puni, tubi, catturi, per carità, ma se la biglia è stupendo, non me ne ha fatti nulla. Gli altri si muore così, per carità. Poi i fili, no? Qua i fili sono di quelli rigidi, sono fili rigidi, sono arrotolati, capito? Imburicati l'uno con l'altro, capito? E sono fili rigidi, e poi di quel file, il filo non è fine, mi sembra che sia da uno, boh, da mezzo, io non lo so la misura dei fili come sono, ma i fili sono fine. Hai capito? E se sono fili rigide? Anche qua la porta con filati i fili, mi sono capitato in certe prese che ci sono quei fili rigidi con la guaina grigia e il trento mi sono ridotto i fili. Proprio di l'anno del 1900 brucia chi sono quei cavetti. In certi posti giacciono così, per carità. Lo. Gian Mari, mi senti? Vabbè, con quello è. Va bene. Ui. Si è annevato una bucaria, annevato. Infatti io ho i fili del solare, purtroppo dal lampadario alla scatola di derivazione ho dovuto lasciare gli originali, perché volevo mettere nuovi anche quelli, capito? Come ho fatto col resto. Però non si può, anche se sono murati. Non si può. No, ma io volevo cambiare tutto l'impianto lui. Io volevo cambiare tutto l'impianto completamente, perché non mi piace questi fili che ci sono, capito? Però in certi posti non escono. Tu vai a tirare, non escono fuori i fili, capito? Perché appunti sono murati questi fili, così che come fai tu a cambiare tutto l'impianto? Non è possibile, capito? Devi fasciare, fare le tracce nuove, mettere i corrugati nuovi, allora va bene, ma i fili non escono. No, tutto nuovo, tracce, corrugato e scatole, tutto nuovo, anche noi, non che la massa si goccia. Gli amici, ma a me non me ne hanno dato così, non me ne ha fatti nulla, ma... Paravano, sono tutti così, lo so, certo. Quel magazzino ci m'era bruciato un filo, io volevo direttamente mettere un'altra scatola più prima di quello che dove si è bruciato, e invece era tutto murato il filo, tutto murato, erano tre fili, ma erano tutti murati, così che ho dovuto fare diversamente. E a ti pigliano i travagli, intanto davvero non li controllano e fanno lo travaglio correndo alla minna a fusto, non hai tu preso. Tanto le dinanze danno imbigliati già, ma pure ci danno poche e in confronto alle dinanze fanno i travagli. Tanto davvero non l'ha controllato nessuno, hai capito? Ma sono tutti i casi popolari così. In casa di mia sorella quando gliel'ho restaurata ha detto di fare tutto l'uomo, tracci, corrugato, catturetti. E ti lascio la casa che era lì, mi dai 30 euro e mi dai murati come tu ti disegni giù, anche quelle che andavano a lampadari, a me da andavi lì. Ha detto di fare 4 o 5 buchi da pignata a pignata, ma fa pure entrare un corrugato, aiutando a farlo camminare, ma a farlo arrivare lì la lampadari. Per carità. A Falcone c'è in frequenza? Cosa lui? Aspetta se c'è Porto Falcone in frequenza. Capito lui, cosa hai detto? Ho detto se c'è Paoletto Falcone, chi è quello che stava parlando? Paoletto c'è, sì, già c'è già. Già ho sentito bene. Sì, avanti Paoletto. Ah, Paoletto si è assentato. Ti assegni la parigi, Paoletto. Capito. Beh, infatti ho tu pure, grazie che ci pianto, aiuto. Dai, io se lo fa Luca, mi. Lui ci fa pa, metta presto se lo fa. Beh, a causa che dammi il circuito di dare una cosa. Già, avevo eliminato questa scrivania, il barri di salone. Avevo domani se la barri in garage. E invece a terra e sa roba in me, mi se la cosa in alto. E un capuzzino mi ha già rubato i baracchini e tutto il bambalambam che va via in altra scrivania. Tutta garaggio, tutta garaggio. Abbatti bene un garaggio, la vuoi non veloce a pulire la macchina. No, già c'è il posto, no, ma all'ingresso sulla destra c'è cosa che appoggia da in terra, no? E facci la calla in terra, se buon qui ce la appoggia sopra il. Già c'è il posto, a buia. E se no, non ce l'abbiamo varata. E tu metti le mensole sui muri e certa roba puoi mettere sopra le mensole e fai i garaggi libero. Ah, si vinaggio tre mensoloni. Una di fronte quando entri, metta là che c'è la vasca da bagno sopra. Cadre a sta roba, ventola e altre cose ci sono. Poi ne ho una sulla destra e un'altra sulla sinistra, e sono pieni di a destra che a sinistra, e più due scaffali di quelli metallici, sono pieni di ferri e di roba, e più un armadietto che c'avevo qua, di plastica, che è pieno brulisso. Dritto e sopra buio. Ma la pentola c'hai pure, così grande la pentola. La pentola quella che appoggia a piede stallo per l'estate, per il fresco. Dalla a Luca, gatto, che lui se la attacca dietro non fa male. E cosa devi fare? Chi da vacca, chi cammina nei fiumi, come si chiama Luca? Ho capito, chi? La ventola è quella barca che sta negli stagni, che c'ha quella ventola grande grande attaccata dietro e cammina quella barca negli stagni, che com'è quella barca, come si chiama? Non me lo ricordo, ho capito quale stai dicendo. Quelle sono belle. E chi fa questa ventola manna di Bosi che rimane bussato in alto e pompano un bene. E poco camminano mica, e sono leggere le barche, le barchette, capita? E così che va a fare così, certo, attaccati dietro in mare miei, e poco camminami. A c'era fa poi andare con questa ventola buona. E allora, l'asciuga a capelli, a chi ne parate non funzionava la riagata. C'era una bella ventola, però era tutto un blocco, io mi asurro la ventola e se la giurampata, se non funzionava bene, tre velocità, Aspetta, chiamo a Paoletto. Paole! Chi c'è il piacere della Padini? Paoletto, grazie. Ehi, qui mi c'è che la candeggia e ti fa una lampadina. Luca, che piacciamo qua con le lampadine, aiuto. Ma cosa effendi? Ma non è che da bui se c'è la casa carbonizzata, no? Ehi, sì, magari, ma fa le pesa c'è la casa carbonizzata. Oh, Luca, confermo, mi ha fatto vedere la luce normale della 220, rimane giallastra il colore della luce, fea che il drone. Quella lampadina che ha piazzato lui, bianca bianca, di biglia burlucci. Sì che ci sono quelle lampadinette, grandi, io grazie, bianche bianche. E ci sono a LED con le lampadine così. E fa luce quante quelle che ha messo Luca. Ma sono a 220, chi si sono a 12 forse non consuma niente. E poi la corrente di consumo è gratis perché te la carica il sole, il pannello, le batterie ed è tutto gratis. Oh Luca! È vero. E tu invece paghi a colpi di 200, mentre chi si è aggiungato una radice. Ma dipende, cosa c'è, ma se mica lo lampadino ce la fa a diventarlo, solo lampadine, ma la luce qua non è che c'è un tempo lampadine a basso consumo. La mamma che purtroppo ha un po' di dispersione di corrente. No, se ti compri l'adattatore fai andare il televisore a 12 volt e lo scaldabagno non lo so se fa lo stesso. E grandi caldi. Ma infatti. Non penso allo scalabagno, ma con la lavatrice. Io. Infatti, mi sta facendo il progetto, Paoletto. Mi sta facendo il progetto, ci chiedo però lo facciamo esaminare, se va bene lo piazziamo, capito lui? Ti sto facendo il progetto, allora già va bene, dai. Grazie, bisogna vedere anche quanto durano questi pannelli solari, quanto tempo hanno di durata, capito? Non è così, no. Di mammo lo facciamo, di mammo. Ciao Bacchi, ma il pannello solare se l'ha autocostruito lui, dunque non ti costa nulla. Anzi, se si imbarra si inizia a fare un altro, più meglio e più grande pure. Bacchi! Ehi, buonasera Graziano, buonasera Gian Maria e anche a Luca. E buonasera anche a Paoletto, io non l'ho ascoltato, ho sentito nominarlo, non l'ho sentito. Riprendi Graziano. Ehi, ben sentito, salito sei da campagna. Ehi, da un'ora. Era già stato pure un po' in Romandia. Aspetta un attimo, riprendi Gian Maria. Ma con chi stai parlando? Luca! Ehi a Gio Maria, ciao Marchisio, buonasera! Buonasera Luca, buonasera anche a Gio Maria. Gio Maria non mi ascolta. Cambio zona. Buonasera Marchisio, adesso già ti sento. Buonasera. E beh, a casa sì adesso? Sì, adesso sono a casa, sono arrivato a casa. In macchina io ti sentivo bene. Arrivavi benissimo, tu e Graziano. Solo che tu non sentivi a me. È zona bianca, in bianco lo va lì. Non ti sentivo, Nulla, nulla. Poi nemmeno si accendeva nulla qua. Tutto strano, Ed era con l'antenna esterna, eppure, magari tu mi sentivi magari bene perché avevo l'antenna esterna. Adesso sono con l'antennino però, Però arrivo bene ugualmente a casa tua, no? Sì, abbastanza, Don Marino. No, hai lasciato la tettoia in campagna. Ho acceso, sì, da Graziano, poi sei da te, quindi arrivano anche qua. Però se disposti dove sono le serre, zero di porto zero. Da lì fino a arrivare da Antonino non si sente nulla. Vediamo un po' se c'è ancora... Mister Paoletto, chiamiamolo Paoletto adesso. Paolo, o lui. Scatta, l'impianto mi sta facendo il progetto, eh. Preparato lo sta, allora. Sì, preparato lo sta, eh. Vediamo un po' esaminiamo a vedere un po' com'è la questione. Lasciamolo fare, si è assentato per quello adesso. Ui. Già devo bene. E allora mi bocco la casa a Montolaggio, cazzo. Oh, mamma mia, da su tutto come te. E ciao, buonanotte. Da, va bene ugualmente. Graziale la ricuferi. C'è il posto che tanto di quel posto per mettere tutto e va bene, ma a me no, eh. È un casino, figlio contro figlio. A lui viene bene perché ha proprio il tetto sotto la casa. Se no non aveva fatto manco questo. Qua non ci sarebbe riuscito. A lui viene bene perché ha sotto tutti questi figli, filetti. Se no... Quando avevo la cabina, cioè avevo le batterie, di quelle batterie del treno, cazzo, della lettorina, cazzo, la mia batteria, cazzo. E avevo tutto illuminato, io avevo il gruppo di elettrogeno da 220 a 12 volt, e più ne avevo uno, io ho fatto la motore di ciao. E ne avevo fatto uno anche a Marino, un gruppo, a 12 volt. Capito? Perché mi dedicavo, mi ero fatto 5-6 di quello lì, da motore ciao e facevo la carrozzeria col ferro e ci piazzavo una batteria, una dinamo e il correttore della 500, mettevo in marcia e con la corda, la puleggia, avevo sbeccato la puleggia. E facevo, avevo la 12 volte e tutto illuminato era. 8 lampadine facevo accendere in cabina in Plattamona. Beh certo, adesso la faceva il motore del Sia Fuglia. E allora, cazzo, col motore Xiaomi, cazzo. Cazzo, e la si faccio un buio, mi sta sempre bene, cazzo. E poi me ne ho preso uno, il Blue Master da 1.8, che ce l'ho ancora, a 220, 12 volt e 24 volt ciò. Quel gruppo che ce l'ho, ancora ce l'ho qua. E funziona tutto ancora, eh. E lì avevo tutto l'impianto a 12 volt. Capito? Ho capito, vabbè. Io mi ricordo, l'aveva fatto Mario Mansell in campagna a Pompugno, con un motore DC per fare luce. E visto che luce in campagna non ce n'era, mi troppo anche raccontare Pompugno. Ah, ma tutto ci potevo fare, ripeto, io ne ho fatto parecchio, capito? Per cui, tipo la diva che generava la corrente, capito? Con le batterie. Metto la batteria, come te la sentiva, poi magari senza che mi rende, la batteria te la caricava nonostante che c'era la luce accesa, e dopo magari lo spegnevi e c'aveva la corrente a 12 volte, capito? Sì, e beh certo, sei visto per fare luce. Mancava la luce, non mi mancava mai in barrio, anche il frigorifero c'avevo. C'avevo un frigorifero a 12 volte e a gas. E anche a 220 andava quel frigorifero che facevo io. E infatti mi sembra che l'ho regalato a cosa, a tiro muscolo avevo regalato quel frigorifero. Sì, lo facevo a gas, a 12 volte o a 220. E non andava? C'è sempre che mi friccava. Come funzionava? Scherzi, non prima. Il mare allora, in quei tempi, salta a raggio a dire, E che un gruppo l'avevo fatto io prima di prendere quel gruppo a 220, che usavo sempre quello, capito? Lo prendevo una mano, lo prendevo, poi consumava poco. Un'altra miscela stava tutta la sera camminando, capito? Avanti, grazie. Io nella roulotte c'avevo il frigorifero a gas, te ne dimenticavi di chiamare la bombola. Tiro il bar è tutto, glielo faccio io, ce l'avevo sempre il magazzino. Non mi parlo più per mi straccavato, non so se ce l'ha ancora oppure no, cosa, non mi serviva più ormai, me li comprava il magazzino e te l'ha aiutato. No, io l'ho venduto insieme alla roulotto e ora me ne vado. Ah beh, tu avevi la roulotto, io la roulotto non avevo. Prima avevo la tenda, facevo campeggio lì a Sentino, oppure quando facevo a Sperso Pittine, anzi al quarto. Allora c'era il canguro bianco, non so se l'hai conosciuto, che c'era quel genovese lì al bar. E poi mi sono venduto la tenda, me la sono lasciata, che ancora dovrei averla. E mi sono fatto la cabina a Sesso Pettine. E io già, 2 anni mi ero così terra. Eia, riprendi Luca. Eia, stanotte ci ha dato il padre di Marina il carciofo bello, tu vedi questi carciofi belli, ma belli veramente. Me lo mangio crudo, monarizzo, A me ha detto Luca. Dura, in forno da ieri, così A me sta dicendo Luca. Io detto, stanotte mangio carciofo crudo, Gio Mari. Buoni, sono buoni veramente. Il gambo, tenero. Ah, a tanti ti ho sentito, come vai? Vuol dire che sto prendendo la batteria, mi senti adesso? Adesso sì, grazie. Riprendi tu che sto finendo una cosa qua, da dentro subito. Sì, chi ne sono? Ma chi zio? Ci sì. Me ne sto anche andando, mi sono con un mese. No, c'ho la freddo, non riesco a parlare, dopo sempre quello che fa solito in mano, va. Non lo va a fare, è mal di gola. Bene, vi saluto, vi stavo ascoltando, ciao Graziano, ciao anche a Gio Maria e anche a Luca, buona serata, buon proseguimento di serata. E Bacchi, sono QRT, ciao a tutti. Ciao Bacchi, dai, saluto anche io, sono così, Alla prossima, dai. Avanti Gio Maria. Storie non c'è. Grazie. Ah, c'è la Bacchise pure. Bacchise non c'è. Luca. Sono qua Gio Maria, mi senti? Cazzo sì, Gio Maria non dipende da me, Non fa passaggio. 1, 2, 3, 30, 40, 50. Guarda un po'. Prova. Ti sento adesso, vai. Ti sento. Non dipende da me, Gio Maria, capito? Ma se poc'anzi arrivavi forte adesso invece se hai diminuito. Non lo so. Ora la batteria mezzo scarica. Graziano, ci sei. Non è l'ascolta tua radio, capito? Perché me la cocco da segnale, capito? Adesso se segnale 4 mentre che tu arrivi a fondo scala qua. Non lo so Gio Maria, non so cosa dirti. Forse magari oggi è così. Grazie, non si è assentato, grazie. Eia, dimmi. Come lo senti a Luca? Io lo sento bene, prova. 1, 2, 3, 30, 40, 50. Ti sento bene, chiasso e forte. Ti sento benissimo. Ma siete vicini voi, che lo senti bene. No, ma anche io lo sento bene, era stato a fondo scala, oggi invece segnale più basso. Anche a te io sento bene, anche a Macchino io sentivo bene, a tutti io sento bene, anche a Antonello quando c'era, lo sentivo benissimo, anche a Lucino. Avanti. Ia. Gaiete su conto. Ma effettivamente qualche volta ti cambi posizione, Luca, così è. Luca, ogni tanto cambi posizione però, capito? Perché sennò arrivi a fondo scala tu, No, io sono sempre nel solito posto, in cucina, all'ingresso di cucina, dove mi siedo io, là. Vabbè, ma io sto parlando di Luca. Luca, diciamo di porta in porta. Anche io certe volte, secondo dove si sposta, lo sento in basso. È per quello che dico, si vede che intanto si sposta. perché lui c'è un punto quando lo sento forte si vede che è proprio il punto giusto quello dove lo sento forte, io capito? Luca, carciofi mangi stanotte, ma crudi. Allora? Già sono buoni, con l'olio e il sale ti fa il bicchiere con un po' di sale, con l'olio. E sono buoni, sì, tenari e tenari. A voglia. Solo che ti fa tenere la bocca nita. Arrivo, faccia messo in mezzo lui. No, crudi, Gio Mari. Ah, così li mangi. E allora? Io faccio quando faccio quelle uova, capito? Ci butto un paio di uova dentro. Certo. E se di quella tenera, cazzo, che sta pulita e fa, lo sai, mangia dritto per forza. No, questi sono buoni, buoni, buoni, buoni. E sono buoni, sì, i carciofi hanno vitamina ferro. Già lo so. Se no faccio la marcetta, a voglia di ferro. Ma come sa, si è un po' cugaro Marcinto, Ah, ma può vendere un ferro a prezzo d'oro? Ma non lo so io. Vedo lo può fare già di quello scadente, quello che compra, mica è di prima qualità. E quello scadente quello che compra lui. Li bari di fittosi, lo scatolato, mica è ferro nuovo nuovo. È nuovo sì, ma è quel ferro che scartano nella paprika, capito? Sì, abbiamo preso lo scatolato, sette verghe di scatolato, mi sembra che era, non so se era 13 o 14 quello scatolato, più le lamiere, catta, abbiamo preso un poco di là. E sulle 800.000 lire, e sono 800 euro abbiamo speso per fare una tettoia a mia figlia. Gli assi rubati magari ma stessi, non ti preoccupa. Che lo so, ma lo so perché quando lo comprava, lo prendeva, saliva in continente e lo comprava, poi glielo spedivano e quando lo scaricavo, che la città per gli scaffali, uno si voleva salvare, l'altro era lì, sempre che difetto mi la via. Non tu già l'hai vista quella tettoia che abbiamo fatto da Loredana giù? Sì, sì, l'ho vista. Hai visto che lavoro abbiamo fatto? Sì, bella. E poi quell'altra abbiamo fatto in legna, abbiamo chiuso quel pezzo di cortina che c'era, anche quella abbiamo fatto un bel lavoro, lo so, vabbè, dai, io chiudo adesso domani, fate finito quasi il programma e vado a mangiare, ci sentiamo domani, ciao, buonanotte, buona cena, ciao. Ciao, buonanotte, buona cena, ci sentiamo domani, se Dio vuole, vai, grazie. Ciao Luca, domani, buona cena, buon tutto, anche da parte di Paletta, e anche me lo dici. Ce la sentiamo domani, buona cena anche a te e alla tua 50, saluti da... ciao ciao! Ok, ciao, grazie, che abbiamo tutto, va, che da parte Lorenzo, dai. A domani, buon proseguimento e buona cena, ciao! Ciao!